questi aggiornamenti portano a una puntualità, mi aiutano tantissimo e quindi grazie allo staff tecnico di Radio Città Fujiko. 8:03 minuti, mercoledì magico e letterario per Radio Città Fujiko, il primo del 2024, puntuale anche Silvia e anche Stefano. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Willy. Allora, gli auguri te li faccio anche radiofonicamente parlando, oltre che fuori onda. Buon anno cara Silvia e caro Stefano, il nostro notaio che sarà impegnato con doppia pubblicazione quest'oggi, quindi 333-180-9494. Passate buone feste! Sì. Ma sì, ma dai, sì. Bene, oh, dai. Questo già è un'ottima partenza. Come ben sappiamo, chi ben comincia è alla metà dell'opera, ma siamo alla prima pubblicazione che Silvia in telefonata rapida per la giornata di ieri mi ha detto no, io presento il libro, perché oggi no. C'è la proclamazione del premio Pellegrino. Ma volevi fare un'ora di proclamazione di Pellegrino? No. Però volevo dire che grazie ai voti che sono arrivati non solo sulla paginetta Facebook ma anche in privato o sul profilo personale, il premio Pellegrino 2023, pubblicazione per Adelphi, Michael Bible, l'ultima cosa bella sulla faccia della terra. Questo è stato proclamato da voi e condiviso anche da me. Silvia, non hai letto, e sarà il tuo regalo per il buon 2024. Grazie. Questo sarà l'omaggio, così vediamo se anche tu approvi questa scelta per l'anno 2023. Iniziamo l'anno corrente con un libro che, come ho detto in precedenza, in telefonata rapidissima, Silvia ha detto no, ci tenevo a portare questo lavoro. Edizioni E.O., direttamente dalla casa editrice. Di chi si tratta? Si tratta di un romanzo intitolato Dove nascono le eroine dei romanzi, di Claire Vigarellot. È una scrittrice francese, un'opera prima, è un mi faceva piacere parlarne perché è un romanzo molto leggero, però anche molto intelligente, se vogliamo. Potremmo definirlo un lavoro di intrattenimento, però è un intrattenimento che ti fa anche un po' pensare e comunque si legge veramente, anche se è piuttosto corposo. Però, vedo. Ma guarda, io l'ho letto in 3 giorni. Si legge proprio, e non continuativamente, si legge proprio d'un fiato, perché vuoi scoprire come va a finire, insomma, cosa succede. Succedono tante cose. Il titolo è molto affascinante. Sì, anche il libro è affascinante. Dunque, è la storia di una signora assolutamente normale, una piccola segretaria in una grande industria di materassi, che è una persona goffa, timidissima, che non riesce a comunicare con gli altri. Ha un sacco di problemi, ha un marito disoccupato che è stato licenziato senza giusta causa e è ossessionato dall'idea di far causa alla multinazionale del farmaco che l'ha licenziato. Ha 2 figli adolescenti, tutte e 2 in crisi adolescenziale, e lei è una di quelle persone che passano completamente inosservate. Praticamente al lavoro nessuno la saluta, nessuno la guarda, cioè sembra quasi una suppellettile. Non è diversamente normale, è assolutamente normale. Assolutamente normale, e pensa che nessuno la guarda, nessuno la considera, sembra che non esista, anche se lei ha un'altra caratteristica, poveretta, è obesa. Per cui, insomma, almeno si dovrebbe vedere, notare. L'unico che la nota è il suo capo, che la nota solo per trattarla male, diciamo. A un certo punto, stanca di questa situazione, lei si rifugia in un passatempo, si inventa un personaggio, Charlotte, una ragazza che è stata anche lei obesa da piccola, è stata bullizzata e che, diventata grande, diventata bellissima, decide di vendicarsi di tutti quelli che l'hanno maltrattata, e scrive le storie di questa Charlotte, la cui vendetta consiste nel sedurre gli uomini e poi dopo abbandonarli o quando non ammazzarli. Ok. E queste le scrive per se stessa queste storie, ma ci si cala talmente tanto che a un certo punto lei stessa si sente Charlotte e questo la aiuta a superare la sua vita quotidiana. Però poco alla volta comincia a distrarsi dal suo mondo, a trascurare un po' la famiglia, eccetera. per scrivere queste storie. Com'è, come non è, a un certo punto il primo romanzo su Charlotte arriva sul tavolo di un editore. Non si sa chi gliel'ha mandato, certo non l'ha mandato la povera Sylvie che l'ha scritto, però sta di fatto che l'editore legge questo romanzo, capisce che dentro c'è la stoffa di un bestseller, lo mette a posto e lo lancia sul mercato con uno pseudonimo. E le cose vanno bene, diciamo, anzi anche molto bene, perché diventa un grande bestseller erotico, perché il libro è pieno, è un libro spinto. Se c'è la seduzione, appunto. E le cose vanno bene, anzi benissimo per lei. Al primo romanzo ne segue un secondo, un terzo, diventa una saga, va tutto bene, fin tanto che improvvisamente su un giornale non appare un articolo in cui si dice la Alicia Clarke, l'autrice di La Rosa Azzurra, questo è lo pseudonimo, sì, in realtà è Sylvie e poi il cognome che non mi ricordo più. E lei resta di stucco perché nessuno tranne l'editore, così le sembra almeno, sapeva che lei avesse scritto questo libro. E l'editore giura e spergiura che non è stato lui a mettere in giro la voce. Da questo c'è momento. È un ammiratore segreto. Questo è proprio il nucleo della storia. Si suppone sarà lo stesso che ha mandato la chiavetta col libro? E come ha fatto ad avere la chiavetta costui o costei? Lo scoprirete voi. In particolare chi vincerà il libro, che ha un titolo molto particolare, Dove nascono le eroine dei romanzi. Sì, dove Bello. Nascono le eroine dei romanzi. Bello. E nascono da un disagio molte sì, volte. In da questo caso nascono da un disagio. Sì. Da un'invisibilità, da una difficoltà nel proporsi, dalla quotidianità assolutamente non rilevante. Non ti voglio raccontare molto d'altro, perché dal momento in cui ovviamente viene svelata l'identità dell'autrice, le cose per l'autrice prendono svoltano. Una piega molto diversa, perché ti immagini se dall'oggi al domani tuo marito, tua madre, i tuoi figli adolescenti imparano che tu sei l'autrice di quello che uno dei figli definisce appunto un romanzo super spinto, però che fa anche un sacco di quattrini. Quindi c'è tutto un discorso in certi momenti sembra di così che tra le righe si nasconda un po' la storia di Elena Ferrante, fin tanto che lei non si sa chi è, no? Diventa veramente un caso letterario, per cui al lavoro invece cominciano a guardarla con occhi diversi, cominciano a vederla. E guarda un po' il successo cosa porta. Quindi ci sono tutti questi passaggi di lei che dapprima si vergogna, poi comincia ad acquisire una personalità, comincia a essere contenta di andare a presentarlo in giro questo libro. E ti dico solo questo, le cose appunto precipitano quando le viene richiesto di fare il quarto romanzo e non ci riesce. E qui abbiamo il blocco dello scrittore. Prima pagina, del foglio bianco. Sì, si prende 6 mesi di congedo dal lavoro, però non viene fuori niente. Non viene fuori niente, ma... Anche qui colpo di scena. Anche qui colpo di scena, il quarto romanzo arriva sul tavolo dell'editore. E chi l'avrà mandato? Certo non l'ha scritto lei, ma chi l'avrà mandato? I motivi per avere approfondimento di curiosità in questa presentazione, seppur sintetica, di Sylvia, che lascia molta curiosità e allo stesso tempo ha anche una capacità letteraria per opera prima di questa scrittrice. Sì, opera prima di questa scrittrice di cui non si sa niente. No, non anche si sa... lei. No. Anche lei. No, è un po' sovrappeso. No, non che non si lavora. Sappia niente. Ci sono solo 2 righe nella quarta di copertina, ti dice semplicemente che si occupa di produzione cinematografica, sceneggiatura e montaggio. Bene. Basta, non sappiamo altro. Potrebbe essere anche, nonostante l'aspetto molto letterario, traslato al cinema, perché c'è... Sì, sarebbe molto... Mentre lo leggevo me lo immaginavo... Lo vedevi? Sì, lo vedevo e lo vedevo con Kathy Bates, ma quando era giovane, cioè quando ha fatto Misery, perché veramente sarebbe il personaggio... avrebbe le physique du rôle. Physique du rôle. Ok, allora facciamo il primo stacco musicale che presenterà Stefano, ma non può perché sapete bene che lui, lui non si espone. E se tu hai notizia, ho fatto una ricerca. Conosco. Dunque, il primo brano che volevo mettere, questo l'ho subito pensato mentre leggevo il libro, era ovviamente Paperback Writer dei Beatles. Avevo già preparato la versione originale e Stefano è arrivato con questo disco e mi ha detto: no, guarda, qui c'è Paperback Writer, c'è una cover molto particolare. E l'ho ascoltata, mi è piaciuta molto, la cover di Emmanuel Santaromanà, che restiamo in Francia, che mi va bene appunto perché è francese. È un disc jockey francese che pare abbia un enorme successo in Francia tra così nella musica indie, diciamo. La cosa interessante di questa cover è che è hipster che è Stefano, è cantata da una voce femminile, quindi quando questa dice sai come si I wanna be a paperback writer, I wanna be a paperback writer, sembra proprio la storia della nostra signora, insomma, colonna sonora azzeccatissima, perfetta. E arrivano gli auguri e un buon 2024 anche da Oristano, dalla Sardegna. Magari se si firma questa ascoltatrice o ascoltatore saremo ben felici di ricambiare con un caloroso abbraccio, da anche un consiglio musicale probabilmente per il venerdì mattina in musica italiana. Sarà soddisfatto o soddisfatta. E Sergio, buon anno alle santità letterarie. Oh là là. Quindi santità letterarie, però l'ha abbreviato in maniera un pochettino dubbia, l'ho interpretato in questo modo, insomma. Però do il buongiorno a Sergio che aspetto in redazione, in quanto tra l'altro oggi mercoledì è giunti a metà settimana, primo libro presentato come contenuti, però vogliamo saperne di più, grande tradizione per tutto quello che riguarda la letteratura femminile francese, non so, da Marguerite Duras la prima che mi viene in mente. Ci sono non si fanno mai paragoni, lo so, perdonami Silvia, però nella tradizione di queste grandi scrittrici del Novecento c'è un riferimento in questa giovane all'opera prima? No, è un libro particolare. No, perché è un libro molto, molto semplice, cioè diciamo non c'è nessuna volontà di inserirsi, okay, in una casistica classica, diciamo, altro. È proprio una storia, una bella storia che tu leggi per il piacere di andare avanti, diciamo. Sì, per la voglia. Questo sia chiaro, non voglio dire che sia un romanzetto rosa, ecco. Ah no. È veramente un romanzo delizioso. Io l'ho letto con molto piacere. Chiaramente non è un capolavoro della letteratura francese, diciamo. Magari fra 10 anni non so ricorderà più nessuno, però è molto intelligente, e soprattutto la creazione di questa protagonista, che è lei stessa a definirsi obesa, che ha tanti problemi e che riesce a diventare un'altra proprio quando scrive. C'è il gusto di raccontarti come scrivendo tu crei un altro mondo e ti crei un alter ego, perché per tutto il periodo in cui lei scrive questi romanzi sotto pseudonimo, lei veramente vive una vita quasi schizofrenica, cioè da un lato c'è lei con tutti i suoi problemi e dall'altro c'è questa creatura che esce da lei, che è bellissima, che la vendica in tutti i modi, no? Lei riesce in qualche modo a barcamenarsi fra queste due realtà che sono diversissime. Non c'è niente fra l'una e l'altra se non il fatto che la Charlotte è la creatura inventata, è una ragazza che anche lei è stata grassa, bullizzata e ha avuto dei problemi in questo senso. Ed è per questo poi che i libri hanno questo enorme successo, perché tante donne ci si riconoscono e vorrebbero essere come lei. E grazie ad Alice, che è lo sì, pseudonimo Alicia, sì. Alicia, che verrà adottato dalla protagonista, si arriverà al successo, che adesso non è solo un successo editoriale, secondo me è anche un po' un successo per quanto riguarda un percorso di vita. Infatti quando poi lei si svela e accetta, dapprima molto titubante, perché lei proprio non riusciva a parlare in pubblico, le venivano le chiazze rosse in viso, era goffissima. Quindi quando le dicono di andare a presentare i suoi libri, di smascherarsi, andare a presentare i suoi libri davanti a un folto pubblico, chiaramente lei non vuole farlo. Quando finalmente accetta e poi ci prende gusto, arrivano frotte di persone. Da prima lei fa solo dei firmacopia, no? E non dice niente. Poi la gente però la accosta e le dice: il suo libro mi ha fatto tanto bene, anch'io ho avuto questo problema. Insomma, comincia a raccontarle, a condividere, e lei risponde e si rende conto in qualche modo non è più soltanto. Non sono sola, ma soprattutto diventa un faro per queste persone. Diventa una che ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, certo. E questo ed altro poi anche nell'indagine di misteriosi o misterioso personaggio che vince la ritrosia nella pubblicazione della stessa protagonista e fa arrivare all'editore i contenuti scritti dall'autrice. Un libro nel libro è sempre molto affascinante, tutto ciò è una cosa ulteriormente curiosa. Infatti sì, è un libro che è molto molto molto piacevole. Iniziamo, devo dire. Bene, quindi allora svelato SS, che non è Santissimi ma è Silvia e Stefano. Ah, quindi, va bene, senza nulla togliere vostro aspetto sacro, però sono per le carità, vostre iniziali, per carità. Io quando tu l'hai detto lo interpreto Santissimi, però SS, io ho pensato alle SS. No, ce ne sono già abbastanza di quei pensieri nefasti, crudeli lì, che veramente più lontani stanno, anzi se sparissero una volta per tutto non sarei altro che contento. Ma bando a tutto ciò, parliamo di libri, ci stiamo avvicinando al momento del quiz. Ribadisco, il premio Pellegrino 2023 è andato a Michael Bible con L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, edizione Adelphi, un libro che parla di un attentato non riuscito, ma Purtroppo, in seguito a un bruttissimo disguido, ci sarà una strage all'interno di una chiesa cristiano-cattolica. Il protagonista, che sarà ovviamente condannato per aver causato tutto ciò, arriva alla carcere e passa gli ultimi giorni raccontando tutto quello che lui ha provato e il perché di questa depressione. Detto così sembra tagliato molto col macete, neanche con l'accetta, però indubbiamente è un lavoro molto molto intenso. Mi ha ricordato la modalità di scrittura di Russell Banks, anche perché si parla sempre di una piccola comunità che viene sconvolta, e insomma ha avuto diversi riconoscimenti da ascoltatrici e ascoltatori, e ho confermato per il 2023 questa consegna nel premio Pellegrino nell'anno appena trascorso. Allora, io lancerei il brano e con una premessa. Sì. Non è assolutamente, perché sai, adesso si dice non body è body shaming, non è body shaming, ma non conoscevo per fischi nastri. Aspetta, scusa. No, dimmi bene. Dunque, ho scelto i prossimi due brani, saranno ispirati alle forme fisiche della nostra Sylvie, che lo dice lei stessa, è obesa. Però, apro una parentesi, anch'io. Succede che quando comincia ad avere problemi di blocco della scrittrice, eccetera, dimagrisce. E paradossalmente, quando dimagrisce è meno contenta di quando era grassa. Ma sono tristi quelli troppo magri. Comunque, secondo me. Comunque, diciamo, per tre quarti buoni del libro, lei ha questo grosso problema del grasso e mangia. È una di quelle persone che mangia nervosamente. Quando fa le presentazioni dei libri, che poi c'è il rinfresco, devono toglierle il vassoio, perché si mangia tutto di lei. Di solito è colpa mia quando il vassoio si svuota in maniera molto veloce, anche se cerco di restare sempre indietro, perché la colpa è sempre del più alto. Poi adesso che ho messo anche la pancia, figuriamoci, è lui che mangia tutto, non solo body shaming ma anche un'accusa ingiusta. Allora, il brano, ho preso due, questo brano e il prossimo, dicevo, sono ispirati appunto a persone grasse. Niente body shaming, per carità. Questo è solo un brano di rock demenziale, diciamo così. Sono i mitici Lino e Misto Terital. Lino e Misto Terital, di cui fra l'altro voi avete anche dei jingle, sì, che ogni tanto passano, dal loro disco Fischi per Nastri. E il pezzo è il primo, quello che lo apre, che si chiama Sono peso, sono obeso. A voi. Sono peso, sono obeso. Wow. Non mi piace lo che sono miroso, sono ansioso. Wow. Se la morte che ogni tanto. Vado sempre al caffè del teatro. Mi sbavo sempre mangiando gelato. Solo con certi pezzi vado a vedere. E leggo solo per chiedere. Sono peso, sono obeso. Non mi piace il rock and roll. Sono fuso, sono astruso. Ti giro sempre bevido. Quando suono, sono un tuono. Qualche nota non la so, e se canto sono in mono, e sono mito di tutto. È un twist questo, anche dato qualche passo di danza. Ho perché visto. È travolgente, che bello spettacolo. Dice: i miei rutti sono giusti, ho capito bene. Non lo so. Quindi, ok, onore al merito anche a Lino Mistroterital per Fischi Nastri. Dal primo brano sono obeso. Sono peso, sono obeso. Obeso. Ecco, quindi anche il gioco di parole è un simpatico calambur, se vogliamo. Ma ora per il quiz ti lascio la parola, visto che siamo a ridosso dello stacco pubblicitario delle 8:30. Il quiz è un po' difficilino stavolta. Dai, faccio facile io. Allora, la nostra protagonista scrive un romanzo erotico. Ora, quello che è forse il più famoso, uno dei più famosi romanzi ritenuto ingiustamente solo un romanzo erotico del Novecento, è L'amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence. Ecco, io vorrei sapere come si chiama di nome Lady Chatterley. Non c'ha solo un cognome, no, c'ha anche un nome di battesimo. Vorrei il nome di battesimo di Lady Chatterley. Il nome di battesimo di Lady Chatterley, e per quanto riguarda il quiz odierno, primo del 2024, e per voi, autrice, titolo e casa editrice. Claire Vigarello, Dove nascono le eroine dei romanzi, edizioni E.O. Lo potete ritirare in libreria Ubik in Birnerio 27. Se all'ascolto Jarno da Calderara può ritirare anche il saggio vinto lunedì di Simone Veil, il Venezia Salva. Ecco, così ho dato anche una comunicazione di servizio. Aggiungo una cosa piccolissima, sì. Volevo ringraziare la casa editrice che me l'ha mandato apposta per il quiz. Oh, il nome di Lady Chatterley. A tra poco. A me questa ragazza sta simpatica, quindi è scritta nella canzone che ha il fondoschiena un po' evidente, ecco. Sì, ma non so se senti che a un certo punto i Queen, questi sono i Queen, no? Certo. Dicono che le ragazze col sedere grosso fanno girare il mondo, quindi. You make the fanno anche girare la testa, ecco. Allora, risposta esatta da Luigi, che però è arrivato un po' dopo, alla vincitrice. Intanto risposta esatta anche per Jarno da Calderara, al quale confermo la vincita del lavoro di Simone Veil che ho presentato lunedì nei magazine. Puoi recarti alla Ubic per ritirarlo, mentre invece per ritirare il lavoro appena presentato da Silvia, sempre alla Ubic, siamo ben contenti di consegnarlo a Paola Costanza, chiamata anche Connie. Bravissima. Bravissima, meglio di così. Luigi ci fa gli auguri di buon 2024, che ovviamente ricambiamo. Certo. E procediamo nella presentazione letteraria per quanto riguarda la seconda pubblicazione. Neri Pozza, un lavoro per la collana I Colibrì. Quindi, se vogliamo, c'è il romanzo, ma ovviamente è una formula di informazione saggistica. Lo so, di solito va nei magazine, ma siccome la tematica mi è molto cara, io ho una grande passione, grazie a Graham Greene, non tanto per la storia di spionaggio che ogni tanto mi porta così a distrazioni, in quanto tutti questi nomi, tutte queste date, faccio un po' fatica con l'intrallazzo del plot letterario dedicato allo spionaggio come genere, la spy story mi porta a distrazioni. È più che altro il periodo storico di Guerra Fredda. L'autore di questo lavoro, una spia tra noi per Neri Pozza, Kim Philby, alcuni di voi conosceranno già questo nome, e il grande tradimento è Ben McIntyre. Ben McIntyre è un giornalista, scrittore inglese per il Times, che è stato ed è inviato speciale in zone molto calde, e quindi ne ha la ben possibilità e le idee chiare, se vogliamo. Insomma, è informato sui fatti, anche se di informazione e controinformazione si parla all'interno di questo lavoro. Una spia tra noi e Kim Philby l'abbiamo già conosciuto con il biografo di Graham Greene, che guarda caso si chiama con omonimia di cognome Richard Greene, scrittore canadese che ha portato Roulette russa. Allora, MI6, spionaggio inglese, i 5 di Cambridge, di cui vi parlerò a breve, e il 1962, dove questo doppio gioco li porta al servizio del KGB. Fu uno dei più grandi scandali, e perché? Perché rivelò delle falle molto importanti all'interno del spionaggio, controspionaggio MI5 ed MI6 della corona britannica, ovviamente a favore del nemico più importante dell'epoca, cioè l'Unione Sovietica. Ribadiamo, e come ben sapete, anche le collaborazioni che l'MI6 teneva con la CIA, prima si chiamava OSS, e tanti personaggi saranno elencati, presenti, descritti da Ben McIntyre, non semplicemente con un aspetto enciclopedico, no, dimenticate tutto ciò. È quello che più mi ha colpito, è l'aspetto umano, cioè di esseri umani, di persone che veramente hanno i cordoni per decidere momenti importanti nel mondo, per vedere come guidare determinate decisioni, per prendere informazioni e poi mandarle oltre la cortina di ferro. Questo è quello, in un contesto storico quanto mai importante, stiamo parlando della guerra fredda. Ecco, tutto ciò lo potete trovare all'interno del lavoro primo che ho letto per il 2024. Ben McIntyre, Una spia tra noi, Kim Philby e il grande tradimento, la postfazione è scritta da John Le Carré, l'edizione Neri Pozza, la collana e i Colibrì. Kim Philby, che è questo personaggio assolutamente molto forte, ma nello stesso tempo definito traditore, ma lui si interessa da subito e resta coinvolto dall'ideologia comunista, allora decide di essere inserito all'interno dei servizi inglesi per poi fare il doppio gioco con il KGB. Kim Philby nasce nel 1912, è stato anche il capo, perché come ben sapete nell'MI6 è stato anche Graham Greene, e tutto ciò lo potete ritrovare nel lavoro bellissimo Il fattore umano, dove appunto parla di una grande amicizia e poi di questo tradimento, insomma, e queste contraddizioni dal punto di vista umano, introspettivo ed emotivo vengono descritte perfettamente nei lavori sia di Ben McIntyre e prima da Graham Greene. Nel 1963 passa al Nemico insieme ad altri personaggi chiamati i Cinque di Cambridge. Beh, quello che poi sarà il suo migliore amico, che nel 1939 farà la scelta di passare al KGB insieme a lui, sarà motivo per non solo purtroppo lo svelare questo tradimento, ma anche una difesa accanita fino all'ultimo, ovviamente, per cercare di proteggere Kim Philby, il doppio giochista, ai danni dell'MI6. Come si conclude ve lo posso anche dire: lui riuscirà a trovare rifugio ed accoglienza via Berlino a Mosca. Definitivamente Kim Philby muore nel 1988, riesce a trovare accoglienza e protezione a Mosca, ma come diceva Francesco Giuseppe, le spie ascoltatele e poi impiccatele. Non è andata esattamente così, non verrà eliminato da Mosca, no, assolutamente. Semplicemente i suoi ultimi anni, dove si aspettava di ricoprire un ruolo, di essere, non dico premiato, però insomma con una certa attenzione, beh, invece gli ultimi anni saranno così, in sordina, sarà poco più che un impiegato all'interno del KGB, e così trascorrerà a Mosca gli ultimi anni di vita, un personaggio che ha stravolto completamente lo spionaggio e il controspionaggio in Europa tra blocco ovest e blocco est. In che modo? È ben scritto da questo lavoro di Ben McIntyre, Una spia tra noi, Kim Philby e il grande tradimento. Niente, una curiosità, lo sai chi si è avvantaggiato enormemente dalla storia di Philby e soprattutto da quando si è scoperto che Philby faceva il doppio gioco? Ah beh, qui è riportato e ho letto anche che ne stanno facendo una serie. No, ma dico al tempo, nel 1963, venne fuori la questione di Philby che faceva il doppio gioco e lo scandalo Profumo. Ah, lo scandalo Profumo. Quindi sì, l'Inghilterra era veramente... era veramente nella cacca, diciamolo pure, a livello mondiale. Era un periodo assolutamente nero. Cosa succede? In quel periodo esce il primo disco dei Beatles e ha un discreto successo. A quel punto i media li pompano enormemente perché diventano un diversivo, perché la gente smette di interessarsi agli scandali, che ce n'erano i due grossi scandali, lo scandalo delle spie e lo scandalo Profumo, e si butta sui Beatles. E i Beatles hanno avuto questo enorme successo, il 63 è l'anno dei Beatles, anche per quello. Perché chiaramente erano bravi, tutto quel che vuoi, ma sono stati pompati. Un motivo in più per distrarre l'attenzione pubblica. Sono diventati il diversivo dagli scandali che stavano veramente avvelenando il Regno Unito. Sì, infatti l'anno che svela tutto ciò, o che inizia a svelare, perché sarà una cosa lunga. Sì, certo. È il 1963. 63. Lui entra insieme a Elliot nel 1939 all'interno del KGB. entra, insomma, prende contatti. Lui, convinto comunista, da inviato alla guerra di Spagna, resta completamente, definitivamente, oltre che la lotta al nazifascismo, ma anche per portare avanti un marx-leninismo appoggiando l'Unione Sovietica. Quale miglior motivo? Lui inizia a fare il doppio gioco con il KGB. Oltretutto la stessa, ed è comprensibile, Unione Sovietica diceva: questo è troppo inglese, però non si fidavano molto, questo è troppo inglese. All'inizio di tutti questi particolari, anche lo scandalo Profumo, tra l'altro, viene citato in questo saggio, che faccio fatica a definire saggio perché, come ho detto, è assolutamente anche molto narrato dal punto di vista umano, e ti rendi conto che questi personaggi sono innanzitutto con amicizie, amori, emozioni, paure, hanno dei poteri e delle conoscenze incredibili, pur restando in un motivo surrentizio di sottobosco. Non sono certamente dei personaggi, e beh, certo, sono spie, sono agenti segreti, però hanno una possibilità di conoscenza veramente vasta e particolare, e nello stesso tempo, anche in questo caso, potrebbero essere degli assolutamente normali. Sergio continua nelle sue divagazioni, dice: mi piace la prof sociologa della comunicazione. Ha capito, hai guadagnato anche. Dino della Bolognina, pur rispondendo e aggiungendo in ritardo sul tuo quiz, dice: Constance Reid per Lady Chatterley, però non so se sarà il suo nome da ragazza, però confesso che non me lo ricordo. Io volevo il nome di battesimo. Dai, okay. Però grazie Dino, e i nostri più cari certo. auguri, ovviamente. Molto più semplice, dalla spy story al poliziesco, seppur un poliziesco in maniera, diciamo così, molto scanzonato, ironico, comico, ecco, l'ispettore Clouseau e la Pantera Rosa, un film che indubbiamente, oltre ad avere, secondo me, una bellezza, ben fatto, ben strutturato, intelligente, anche una comicità molto molto forte. Allora, l'ispettore Clouseau, quando rientrava, aveva questa sorta di domestico che tendeva degli agguati a sorpresa per tenerlo in allenamento. Beh, se mi dite, ovviamente questi agguati a sorpresa erano assolutamente forti, distruggevano la casa. Per avere Ben McIntyre, una spia tra noi, Kim Philby e il grande tradimento, qual era il nome di questo, chiamiamolo, collaboratore familiare, e non solo di collaborazione domestica, ma con una vicinanza nella quotidianità, soprattutto per tenerlo allenato dagli agguati che il lavoro poteva portare all'ispettore Clouseau? Qual era questo nome e qual era, appunto, la particolarità di agguati e del protagonista o coprotagonista nella Pantera Rosa? 333-180-9494, il libro per voi è Ben McIntyre, una spia tra noi, Kim Philby e il grande tradimento. E, Silvia, il brano, sento che questa volta invece siamo un po' psicadelici. Allora, il brano si intitola The Book, per cui è molto adatto per noi, il libro. Io onestamente me l'ha fatto conoscere Stefano, io non so niente di questo, ma mi dice Stefano che questo gruppo è molto amato in questa radio, sì. Ma ha detto che sì. È un gruppo seguito da Angela Zocco, da Andrea Gozza. E io non, confesso, non li conosco, però... Yeah. Doppia vittoria per Jarno da Calderara. Il nome Cato lo aggrediva in maniera sorprendente per metterlo alla prova, distruggendo la casa. Questa è la risposta esatta per avere. Complimenti, Jarno, ti leggi un bel libro. Se hai la passione per la spy story, un po' diversa dai canoni, Ben McIntyre, Una spia tra noi, Kim Philby e Il grande tradimento. Ringrazio anche Alberto che è arrivato secondo con risposta esatta. Cato, ciao Alberto e grazie. King Gizzard, Lizard Wizard, il brano è The Book. The Book, concludiamo sì. Con questo brano. Siamo impegnati per il video, penso. Certo, sì. Quindi il primo video sta per essere portato sul sito www.radiocittafugico.it. Domani doppio appuntamento in mostra, la rubrica Regola d'arte dei 103.1. Tra poco Edipo Enciclopedico a seguire, Liberi Dentro, poi la rassegna stampa con il ritorno di Alfredo Pasquali, già alle prese e indaffarato con i quotidiani e gli approfondimenti sulle notizie nei giornali odierni. Rock Live con Nevio dalle 10.30 alle 12.30. Questa è la mattinata di Radio Città Fugico per oggi, mercoledì 10 gennaio 2024. Domani puntualissimi ore 7 per la prima colazione in diretta e il voltiamo pagina sarà ovviamente mercoledì prossimo con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi, William Piana, che vi ringrazia per l'attenzione, vi manda un grande abbraccio. Silvia, andiamo a fare il video. Andiamo a fare il video. Bellissimo ciondolo, quindi oggi mi raccomando, non perdete il video. Ciao Silvia, ciao Stefano. Ciao Willy e ciao a tutte e a tutti.